And now, imagine that you've just got into a taxi. You need to tell the driver where to go. Per esempio. All'Hotel Berchielli, per favore. Listen to some other examples and repeat. All'aeroporto, per favore. Or you may want to go... Alla stazione. To the station. So? Alla stazione, per favore. But if you have the name of a street, such as... Via Cerretani. You say simply... Via Cerretani, per favore. And now you try. When you hear the prompt... Hotel Berchielli. You say... All'Hotel Berchielli, per favore. You'll then hear the Italian again, followed by another pause for you to repeat it. And as usual, try to copy the accent and intonation. Cominciamo. Let's begin. Cominciamo. 1. Hotel Berchielli. All'Hotel Berchielli, per favore. 2. L'aeroporto. All'aeroporto, per favore. 3. La stazione. Alla stazione, per favore. 4. Via Cerretani. Via Cerretani, per favore.